Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche di alcune vicende maggiormente di cronaca, ma lo faremo nelle notizie in breve. Mi riferisco a un po' di polemiche che stanno montando anche dopo la dichiarazione di ieri del ministro Lorenzin sul Fertility Day. Non ci occupiamo di fertilità in questo programma, ma di demografia sì, perché è una classica variabile e tema di carattere economico, mentre daremo anche qualche aggiornamento su quello che sta capitando a Roma. Per quello che riguarda i temi di approfondimento oggi, torneremo sulla vicenda Apple, perché negli Stati Uniti arrivano posizioni un po' diverse. Ieri quella del New York Times, che ha detto, insomma, attenzione, la colpa è solo dell'azienda di Cupertino e degli Stati Uniti, il Congresso americano deve lavorare per far pagare il giusto alle aziende. E nel frattempo la Vestager, il commissario europeo, che ha dato di fatto non è una multa, è una sanzione, deve ritornare 13 miliardi di tasse non pagate al governo irlandese, ha detto che c'è la volontà di continuare il dialogo. Il numero uno di Apple, Tim Cook, dice di essere molto fiducioso sull'esito del ricorso. Questo per quello che riguarda una vicenda che riguarda complessivamente poi il tema dell'armonizzazione fiscale in Europa e di alcuni accordi presi direttamente dai governi con alcuni grandi gruppi. Parleremo anche dei movimenti, delle voci, nonostante le smentite, di una fusione che sarebbe una fusione enorme, ossia il colosso bancario tedesco Deutsche Bank e Commerzbank. Tra l'altro c'è chi ha già titolato due colossi da IP ed argilla, perché sia Deutsche Bank sul fronte derivati che Commerzbank sono banche che hanno anche ricevuto aiuti. Il punto è che tutti e due hanno e stanno fronteggiando un drastico calo della redditività, e quindi la fusione servirebbe per ridurre alcuni costi e aumentare le sinergie. Deutsche Bank ha fatto un rosso di 7 miliardi nel 2015 contro un utile di 5 miliardi nel 2009, e le azioni di Deutsche Bank hanno perso dal 2010 a oggi il 74% del valore. Nello stesso periodo le azioni di Commerzbank hanno perso l'84% del valore. E il quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt parla di colloqui meticolosi, quelli che vi sono stati a inizio agosto tra i numeri uno di Deutsche Bank e di Commerzbank. Cercheremo anche di anticipare quello che potrebbe essere la lettura del PIL di domani. Ora nessuno può sapere cosa sarà. Sarà lo 0,1 che stima il Ministero dell'Economia, 0,1-0,2, quindi non 0. Il tema in realtà è un altro. Come avete letto anche sui giornali, il governo sta pensando seriamente di levare la decontribuzione e spostare, diciamo, una eventuale, vedremo che margine avrà, che quanti soldi avrà, manovra fiscale su IRPEF e su altre tasse. Ne parleremo in chiusura del programma. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, le altre notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Dopo la destituzione di Dilma Rousseff in Brasile, Michel Temer ha presto ieri il giuramento, è il 37esimo presidente del Brasile. In Brasile è salito al potere un gruppo di corrotti indagati, ha detto la Rousseff, che quindi l'ha presa bene, in una proclamazione pubblica poco dopo l'approvazione dell'impeachment a suo carico da parte del Senato. E gli Stati Uniti, invece, spostandoci nel Nord America, hanno dichiarato la vittoria nel dibattito sull'austerità all'interno del G20. Di cosa si tratta? Per molti mesi, anni, gli Stati Uniti hanno contestato all'interno del G20 le politiche eccessivamente legate all'austerity di carattere europeo e caldeggiate, guidate, invocate, chieste dalla Germania. Allora, oggi, intorno alla posizione americana sulla necessità di usare tutti gli strumenti per la crescita, secondo quanto affermato dal segretario al Tesoro americano Jack Lew, si è creato un consenso, e quindi sostiene la Casa Bianca che il G20 non discute più su crescita contro austerity, ma su come adottare al meglio strumenti di politica di bilancio per sostenere le nostre economie. Vedremo che se questo superamento del tema dell'austerity verrà anche registrato, recepito e metabolizzato da Bruxelles. E poi è intervenuto oggi sulla crescita mondiale anche il Fondo Monetario Internazionale, che parla di una crescita a livello mondiale debole, con prospettive di crescita debole. I rischi restano al ribasso. La Lagarde, il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto che dobbiamo evitare la trappola della crescita bassa, e per farlo servono azioni forti e da mettere in campo ed in pratica in un futuro brevissimo. Per quello che riguarda invece l'area euro, sempre il Fondo Monetario Internazionale chiede che la politica monetaria nell'area euro e in Giappone resti espansiva, quindi basso costo del denaro e quantitative easing. Spostiamoci all'Europa. Allora, di nuovo Angela Merkel sul TTIP, sul tentativo di arrivare a un accordo transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti su una maggiore libertà nel commercio di beni e servizi anche finanziari. Secondo Angela Merkel l'accordo non è fallito e resta un'opportunità di posti di lavoro per l'Europa. Allora, per quello che riguarda la parte, diciamo, della manovra, iniziamo a fare un avvicinamento alla manovra finanziaria che poi dovrà essere presentata a novembre, la legge di stabilità a Bruxelles, e lo faremo più avanti anche alla luce di alcune dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio. Vorrei adesso però commentare due cose, ma molto brevemente, ci mancherebbe. Non entro nel tema politico della giunta Raggi a Roma, che ha perso il capo di gabinetto Carla Ranieri, quello che suscitò molte polemiche per lo stipendio, e anche l'assessore bilancio Marcello Minenna. No, vorrei entrare in maniera così laterale sul tema delle dimissioni del direttore generale e dell'amministratore unico dell'ATAC, perché noi sull'ATAC abbiamo fatto decine di puntate della nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi. La più grande azienda municipalizzata d'Europa, secondo Der Spiegel, esempio da anni per sporcizia e ritardi nei suoi mezzi, dove c'era una corruzione oltre che un assenteismo, una gestione, un ruolo dei sindacati indegno, lo dico senza problemi, gestiscono la mensa aziendale dopo lavoro, anche le macchinette, non si sono mai accorti di nulla, i mezzi che non funzionavano, e abbiamo raccontato delle spese folli per gli pneumatici. Tra l'altro, chi forniva gli pneumatici era una società legata a un dipendente ATAC. Perché lo dico? Perché a fronte di tutto questo, in un'azienda che ha avuto nel 2015 111.000 ore di agibilità sindacali, in cui i permessi retribuiti quest'anno toccheranno quota 131.000, pari al lavoro di 82 persone, quindi 3.600.000 euro di danno per l'azienda. Dopo che i sindacati per anni non hanno visto nulla, anche perché forse controllando il dopolavoro, le 18 mense, i bar, i 151 distributori automatici, forse hanno i sindacati dell'ATAC una corresponsabilità nella gestione, il commissario che si è dimesso, e mi riferisco appunto a Marco Rettighieri, da quello che noi abbiamo visto aveva iniziato un'inversione di tendenza. Aveva per esempio ridotto drasticamente i furti dentro i magazzini dell'ATAC. Era riuscito a ridurre drasticamente il numero di pneumatici. Pensate che l'ATAC arrivava a consumare 12.000 pneumatici in 3 anni e tra l'altro ne ha sostituiti 11.400 per usura e 15.370 per rottura. Insomma, c'era stata un'operazione buona di pulizia. È un peccato perdere un commissario che veniva dall'esperienza Expo, così, per motivi. Rettinghieri dice che ha ricevuto pressioni politiche anche dalla giunta Raggi per lo spostamento di un dirigente, di un suo dipendente che era un attivista di 5 Stelle. Non lo sappiamo. Quello che è un peccato è vedere che chi aveva iniziato a fare pulizia con un approccio manageriale in un'azienda municipalizzata che fa schifo e perde acqua dappertutto, con varie responsabilità, si dimetta perché non ha un interlocutore nel Campidoglio. Adesso, prima che scriviate che siamo contro i grillini, non me ne frega nulla, noi critichiamo grillini, PD, Forza Italia, Lega, quello che c'è. E a questo proposito, fatemi dire una cosa e poi andiamo sul primo tema, in tema di Fertility Day, perché ripeto, noi non ci occupiamo di procreazione in questo programma, ma la demografia è una variabile economica, più volte ce ne siamo occupati. Il tasso demografico basso di tutta l'area euro, tranne un paese, è un tema di carattere economico, perché significa sostenibilità del welfare, come farai a pagare le pensioni di più anziani, popolazione che invecchia, flussi migratori, e quindi una cosa sul Fertility Day fatemela dire. Allora, non entro nel tema lanciato dal ministro Lorenzin, se sia giusto o no fare il giorno della fertilità. Questo è un tema etico, di coscienza, di dibattito sociale. Facciamo solo notare che mentre si vuole annunciare, si annuncia il Fertility Day, questo paese, che da sempre si occupa dei bambini e, diciamo, prima che nascano, o dell'uomo quando deve morire, non ha a tuttora una politica attiva per le famiglie. Non c'è il famoso coefficiente familiare, il quoziente familiare per la tassazione, per cui che tu sia singolo e guadagni 30.000 euro lordi o che tu abbia due figli e una moglie a carico con 30.000 euro lordi, sempre la stessa aliquota paghi. E facciamo notare che al di là del fertility bisogna mettere le persone nelle condizioni di farli sti figli, non parlo, diciamo, di quelle fisiche, tecniche, andremo su un elemento pornografico. Allora, le uniche eccezioni in un'Europa con calo demografico sono la Francia e l'Alto Adige, dove il tasso di natalità, cara Ministro, è molto più alto. Perché? Perché in Francia le mamme francesi, adesso vi faccio elenco, se mi date un'altra base un po' più accettabile, vi faccio elenco delle politiche per la famiglia, quelle vere, oltre a dire a tutti andate e riproducetevi, che va benissimo, fatelo in età giovane, va benissimo, però poi servono anche i soldi per mantenere sti figli. Cosa facciamo, solo un principio etico? Allora, le mamme francesi che fanno due figli a testa hanno il bonus bebè, 185 euro al mese, più un premio di 1.000 euro alla nascita, si chiama prestazione di accoglienza del bambino, dura fino ai 3 anni di età. Poi gli assegni familiari per chi ha due figli, 130 euro al mese in più rispetto al bonus bebè, per chi ne ha 3 sono 300 euro. E chi ne ha altri ottiene altri 165 euro. Oltre gli assegni per educazione dei figli handicappati, l'assegno giornaliero di presenza parentale che permette ai genitori di assentarsi per lavoro per assistere i figli. Si può anche chiedere l'integrazione di libera scelta di attività, la prestazione condivisa. Puoi scaricare la tata, la babysitter. Puoi scaricare la babysitter fino ai 3 anni. E poi i fondi, appunto, aiuto babysitter e custodia del bimbo. E sarà un miracolo, ma la Francia, anche senza Fertility Day, in questo caso ha due figli a testa. In Germania, dove invece il problema della demografia c'è ed è anche più grave che in Italia, Angela Merkel ha dato via la cosiddetta rivoluzione dell'asilo, ossia il diritto a un posto in asilo ad ogni bambino. Lo Stato deve garantire un posto all'asilo, se non lo fa la famiglia può far ricorso e entro 3 mesi deve essere trovata una sistemazione in asili comunali o privati. Poi 184 euro al mese per i primi due bambini, che diventano 190-215 per i successivi nati, e poi i congedi parentali flessibili. Potrei andare avanti, perché c'è il caso della Finlandia, dove quando tu nasci ti arriva la famosa baby box, che è una scatola piena di vestiti, coperte, calzini, pannolini in stoffa, lenzuola, per i primi giorni di vita del bambino. Viene data a tutti, e pensate che la cassetta può servire anche come culla per il nascituro, che non è un dettaglio. E poi si può chiedere che venga convertita in un buono da 140 euro. Gli assegni per i bebè durano fino ai 17 anni di età e aumentano l'aumentare dei figli. Insomma, potrei andare avanti anche col Portogallo, ma la chiudo, dove il Portogallo ha approvato recentemente il quoziente familiare, per cui i sindaci potranno ridurre le tasse del 10% alle famiglie con un figlio, del 15% a chi ne ha due, del 20% a chi invece mette al mondo più di tre pargoli. Ministro Lorenzin, benissimo auspicare politiche per la famiglia, fare figli, però i figli poi vanno mantenuti, non possiamo tornare a Dickens. Allora auspichiamo anche politiche per la famiglia, poi facciamo il Fertility Day e facciamo il quoziente familiare Day, che mi piacerebbe ancora di più. Allora adesso il volo è veramente da Pindaro, perché dal Fertility Day a quello che sta capitando ad Apple non c'è modo per legare i due temi se non cambiare base e passare alle reazioni americane, devo dire in chiaro scuro, perché c'è chi dice ha ragione l'Europa e la Casa Bianca e l'Apple che sbaglia, l'Apple invece che continua sulla sua linea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, Alessandro Praterotti, aiutaci tu, buonasera vice direttore del Sole 24 Ore e bentornato, nel senso che tu hai già scritto un commento sul Sole 24 Ore sulla vicenda, oggi qualche sviluppo in più c'è, perché la Apple non l'ha presa bene, Cook, il numero uno, Tim Cook ha detto sono fiducioso sull'esito del ricorso, ma comunque è esasperante l'atteggiamento dell'Unione Europea. La Casa Bianca è preoccupata dall'azione unilaterale e dalle conseguenze sui contribuenti americani, ma ieri il New York Times diceva attenzione, qui la colpa è solo di Cupertino, cioè della Apple, e anche di un congresso che deve fare pagare il giusto alle aziende. E sullo sfondo resta il tema della cosiddetta web tax di carattere europeo. Su questo oggi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Credo che abbiamo avuto una querelle giudiziaria con Apple. L'Italia ha chiesto dei soldi a Apple, Apple ha pagato una cifra anche molto, molto significativa, centinaia di milioni di euro all'Italia, perché io penso che il principio che queste grandi aziende debbano pagare le tasse anche nei paesi in cui fanno profitti è un principio sacrosanto, e infatti penso che sia importante che l'Unione Europea nel suo complesso lavori sulla istituzione di questa sorta di web tax, così si chiami, che deve essere a mio giudizio però uguale per tutti, cioè bisogna fare le stesse regole, non è che in un paese si fa una regola e in un paese se ne fa un'altra. Allora Alessandro Praterotti, sai che non sto capendo la posizione dell'Apple, la capisco, non pagare 13 miliardi di tasse che secondo l'Unione Europea hanno eluso tramite un accordo non sotto banco, ma un accordo diretto col governo irlandese, la Vestager, il commissario europeo, detto, no, scusate, in questo modo la tassazione... No, giustamente, perché non è nemmeno illusione in questo caso, è ancora più complessa, perché in realtà l'Irlanda gli ha detto non dovete pagare queste tasse, quindi esatto, non è un'illusione, ma sostanzialmente un aiuto di Stato. È un aiuto di Stato. Quindi infatti la Vestager dice a Dublino fatevi ridare i soldi, se no voi avete dato un aiuto di Stato all'Apple. Mi interessa più il fronte americano, perché all'inizio abbiamo visto una reazione un po' scomposta del Ministero del Tesoro, insomma è sempre un'azienda privata e tu sei lo Stato, lascia che se la sbrighi l'azienda privata con il paese in cui opera, anche perché fatturava, gli utili irlandesi includevano anche fatturazioni, la dico male, fatte in India, in Africa, oltre che nel resto d'Europa. Ma adesso qual è la posizione degli Stati Uniti? Perché mi sembra che sia leggermente sfumata. È contraddittoria, soprattutto possiamo dire questi sensi, poi sono gli americani stessi sono messi in un angolo accorgendosi un po' tardi che avevano aperto un'autostrada per le società multinazionali americane per scaricare sul contribuente americano l'offensiva globale per il recupero delle tasse. Per quale motivo? Perché uno dei principi base del codice fiscale americano prevede che tutte le tasse aggiuntive sui profitti che le multinazionali pagano all'estero possano essere dedotte dalla propria dichiarazione dei redditi in America. Allora, l'America, che l'anno scorso e poi è stato un po' il promotore dell'accordo in sede OCSE fra 31 paesi per lo scambio di informazioni, cioè quello che sta avvenendo adesso per capire dove si generano i profitti e quante tasse si pagano in ogni singolo paese, si è accorta che ogni qualvolta che un paese straniero richiede indietro le tasse, le società poi scaricano la bolletta sul contribuente americano. Questo è uno dei paradossi di questa globalizzazione che è stata fatta solo puntando a un aspetto, diciamo così, che è un po' quello che colpisce forse il consumatore, che è quello delle tariffe. Quante tasse pago per vendere un prodotto? Dimenticandoci però che la vera torta, i profitti, quello che veramente può essere un danno anche per l'erario degli stati più deboli come il nostro è quello di fare del sistema fiscale dove c'è una contrattazione tra paesi. E questo è ancora più grave nell'Unione Europea, perché ci dicono che dobbiamo fare sacrifici nel nome dell'interesse comune, ma i benefici li incassano solo i pochi paesi. Avrei gioco facile nel ricordare che il Presidente della Commissione Europea è un grandissimo esperto di trattative private tra stati e singoli. E questo è un altro Juncker aspetto. Juncker è stato per molti anni Presidente del Lussemburgo, ma non voglio andare sulla polemica. Quindi no, per carità, tu stai dicendo, insomma, qui emergono due elementi. Uno, l'imbarazzo degli Stati Uniti, perché lì per lì, in maniera forse incauta e improvvida, hanno subito difeso la Apple. In pratica, se quei 13 miliardi di dollari dovranno essere restituiti all'Irlanda, li pagheranno i contribuenti americani, perché l'Apple li farà una deduzione dal proprio imponibile in America, e questo in America per il governo americano in questo momento non è accettabile. E l'altro è il fronte invece europeo, e qui vorrei chiudere, perché questa vicenda è resa possibile dal fatto che ancora i singoli paesi non solo abbiano tassazioni diverse, e vabbè, fin lì non esiste la monetizzazione fiscale, ma possono anche fare accordi diretti con... Allora, prima abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio parlare di web tax. Adesso, perché però sono proprio le società, non solo, anche altre sono coinvolte, sotto la lente di Bruxelles c'è il gruppo Fiat Chrysler, c'è Starbucks... Sono 35 società attualmente sotto inchiesta. Ecco, qual è l'indirizzo che si potrebbe prendere? Perché parlare di web tax va bene, ma il tema di fondo è l'armonizzazione o l'escludere almeno gli accordi diretti e individuali. Allora, la prima cosa che bisogna fare è cominciare a fare un sistema di tassazione che punta a colpire quella che io chiamo speculazione finanziaria. Cioè, quando una società sposta una holding all'estero per non farsi tassare i dividendi, che sono rendite, lì bisogna stangare. Bisogna far sì che tutti i profitti che vengono generati in un paese da attività industriali o di servizio finanziarie, lì ci sia anche un certo margine, poi a seconda di quello che sono gli equilibri di bilancio, le politiche fiscali dei singoli paesi, di flessibilità. Ma laddove le operazioni di carattere di migrazione fiscale puntano solo a non colpire le rendite, lì bisogna andare giù duri. Fra l'altro, nella stessa Europa, e questo è proprio ripreso il documento, nell'accordo che fu fatto inizio anno per colpire questo tipo di turismo fiscale, furono escluse proprio le rendite finanziarie da questa mannaia per colpire più duramente chi specula e cerca anche di speculare sul fisco degli altri. Chissà se c'è anche un potere nelle lobby quando vengono fatte queste leggi. Grazie intanto. Grazie a voi. Alessandro Patriotti, andiamo sul metodo della pubblicità e poi parliamo di Commerzbank e Deutsche Bank. La borsa meno 0,25%, mi fate notare che non l'ho data, avete ragione. Adesso racconteremo anche i titoli nel dettaglio e poi, diciamo, l'anticipo, le prime indiscrezioni sulle ipotesi di manovra finanziaria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Non voglio fare la puntata sul Fertility Day e so benissimo che il ministro Lorenzin è il ministro della salute, non al welfare, e che l'iniziativa serve a sensibilizzare le donne che non facciano i figli troppo tardi. Ho solo detto che, visto che c'è questa enfasi nel fare i figli, ricordatevi che il dato fattuale è che il tasso demografico nei paesi non è solo quanto lo fai, certo che incide, ma è anche che disponibilità economica hai e quali politiche di welfare attive vengono fatte. Sono qua, ci riempiamo sempre la bocca con i figli, con la famiglia, sempre per motivi etici, politici, religiosi, e possiamo farlo anche per motivi economici ogni tanto. Voilà. Allora, prima di arrivare alla borsa, che comunque oggi ha conosciuto una giornata meno 0,25% Milano, meno 0,1 Parigi, meno 0,60 Francoforte, meno 0,60 Londra e meno 0,40 anche il Dow Jones, vorrei capire che succede sotto il cielo tedesco, nel senso che sembravano voci di corridoio, ma in realtà continuano a restare, e non solo nei corridoi, entrano anche nei consigli di amministrazione le ipotesi di una fusione tra il colosso bancario Deutsche Bank, colosso però indebolito e di cui spesso si è detto ha in pancia miliardi di derivati, e un altro colosso bancario tedesco, Commerzbank, anch'esso però che viene anch'esso viene da anni di difficoltà. Do solo un dato e poi lascio parlare, e lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento, Fabio Pavese del Sole 24 Ore. Ciao Fabio. Ciao. Il dato sui due, diciamo, gruppi, se prendiamo banalmente l'andamento del titolo in borsa, l'andamento del titolo in borsa vede da questo punto di vista un calo brusco del 70% per quello che riguarda Deutsche Bank e dell'80% per quello che riguarda Commerzbank. Tu hai già citato il tema dell'eventuale fusione tra due colossi, ma con delle fondamenta un po' fragili. Beh sì, sono due colossi dai piedi d'argilla, nel senso che ambedue hanno grosse difficoltà, cioè la borsa riflette ovviamente con la caduta dei prezzi che dura ormai da 4-5 anni il fatto che tutte e due le banche tedesche in realtà non fanno più profitti. La Deutsche ha chiuso il 2015 con un buco di bilancio di quasi 7 miliardi e la Commerz fa 1 miliardo di utili su un attivo però 20 volte più grande. Questo segnala che dopo la crisi Lehman in realtà tutta l'industria bancaria europea, Germania in particolare, l'Italia, ma appunto la Germania non esclusa, è entrata in profonda crisi, cioè le banche oramai fanno una redditività sul capitale, che è quello che gli investitori guardano, che è il 3-4% medio in Europa. Il costo del capitale è il 10%, quindi un investitore non investe nelle banche perché in realtà la remunerazione che ha dall'attività è più bassa di quel costo del capitale immobilizzato. Ecco, noi sappiamo che in Germania la polemica contro Mario Draghi, contro il quantitative easing, che ha ridotto a zero i tassi di interesse, quindi anche il margine che può fare la banca sul tasso di interesse, perché è chiaro che se riduce a zero quello il margine è bassissimo, riguardava il mal di pancia, anche il mal di pancia delle banche tedesche, che come tutte le banche avevano un gioco più facile nel fare reddito e redditività giocando sul margine tra quanto ti costa il denaro a prestito e quanto tu lo presti e quanto lo fai pagare quando lo presti. E invece è più difficile fare prestiti alle imprese, andare su altre forme di investimento. È perfettamente ragione, solo che questa roba è un po' un alibi per le tedesche, perché in realtà le perdite non vengono dal fatto che il margine di interesse sia abbassato, questo vale per le italiane, le spagnole, le banche commerciali, certo, ma perché hanno avuto oneri da multe legali per svariati miliardi, cioè la Deutsche Bank perde 7 miliardi non perché il margine di interesse è tracollato, ma perché ogni anno viene beccata in qualche infrazione, prodotti tossici venduti alla clientela, e paga multe sostanziose. Quindi c'è un tema di, in realtà, finanza malata, su cui poi i tedeschi dicono: ma i tassi bassi, i tassi a zero fanno male alle banche. Questo vale per tutte le banche europee, ma le due banche tedesche hanno problemi proprio loro, come diciamo, dire, di malagestio derivante tuttora dalla crisi di Lehman, perché il buco di Deutsche è tutto frutto delle spese legali che ha dovuto pagare per le varie cause che vengono intentate in tutto il mondo. Pensiamo alla truffa sul LIBOR, no? Certo. Su cui Deutsche Bank era coinvolta. Però il problema riguarda tutta l'Europa. Io non so se la fusione è una soluzione. Di sicuro, quando si parla di fusione, ha tutta natura difensiva, cioè sono due malati che per tentare di sopravvivere e alzare la redditività si dicono: mettiamoci insieme. C'è un problema, nel senso che bisogna stare attenti alla concentrazione, perché noi ci siamo lamentati delle banche troppo grandi per fallire, che erano una minaccia sistemica. Se tu metti insieme la Deutsche e la Commerz, avresti un istituto che governa il 40% del sistema bancario in Germania, e quindi tu avresti il problema di una banca talmente grande che poi non puoi far fallire e che rischia di fare l'azzardo morale, quindi stare anche attenti. Però è un segnale indicativo in realtà del profondo malessere, questa volta tedesco, che hanno le loro banche. Pensiamo che il resto... Sì, tra l'altro l'Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario tedesco, nel citare colloqui meticolosi, scusatemi, tra i due vertici, diceva che insomma alcuni grandi azionisti afflitti dalle perdite in borsa, da inizio anno hanno fatto meno 30, meno 40%, appoggiano il piano, che è stato solo parzialmente, vorrei capire se ti risulta, messo da parte, perché Deutsche Bank e Commerzbank vorrebbero prima fare un po' di pulizia interna prima di arrivare alla fusione. Ma in realtà questa fusione serve a giustificare la chiusura di sportelli e la cacciata di migliaia di dipendenti, cioè diventa una sorta di alibi forte per dire: abbiamo troppi dipendenti, abbiamo troppi sportelli, ci fondiamo, dobbiamo eliminarne almeno la metà della somma delle due. Quindi è un tentativo, come dire, un po' forzato di mettere mano ai costi. Non dimentichiamo che, parlando di efficienza bancaria, noi ad esempio abbiamo le piccole banche italiane e ci lamentiamo che costano troppo, hanno troppi sportelli. Sai qual è il rapporto di costi ricavi da Deutsche? L'80%, cioè fatto 100 i ricavi, l'80 sono i costi, che è un rapporto che nota le piccole banche italiane, non te lo aspetti da Deutsche Bank. Quindi c'è una grande inefficienza da parte delle banche tedesche, e proprio perché sono tedeschi uno non si aspetta questo grado di inefficienza. E quindi l'amministratore di Deutsche ha già provato a mandare a casa, c'è un piano di 20.000 esuberi. La fusione porterebbe a un piano di 40.000 esuberi. Allora è il tentativo dei due amministratori legati di tenere salda la poltrona e fare una grande operazione di, come dire, pulizia di costo. E quindi tu dici, in realtà l'operazione potrebbe essere, tra virgolette, il cavallo di Troia per far passare poi tutto un insieme di tagli già previsti, che già avresti dovuto fare. Tu citavi il rischio di un'operazione del genere: avere una banca che da sola fa il 40% del mercato in Germania, too big to fail, vuol dire sostanzialmente che poi quella banca lì, qualunque cosa capiti, devi salvarla con soldi pubblici, sì, non ti puoi permettere il rischio sistemico su una banca, già non te lo puoi permettere su banche, diciamo, con quote minori, figurati su una banca che ha il 40% del mercato. Il vantaggio invece, al di là della pulizia e delle sinergie? Ma il vantaggio è che tu avresti una sorta di grande monopolista che può a quel punto imporre anche i prezzi che vuole sul mercato, cioè le commissioni le stabilisce. Tu cliente a quel punto hai poche opportunità di sceglierti un'altra banca, quindi hai tutto il vantaggio di creare un colosso che impone i prezzi, e in più hai la possibilità di giustificare ai sindacati e al sistema paese il fatto che tu devi fare una grande operazione di dimagrimento dei tuoi organici. Insomma, la motivazione in genere per i grandi manager delle banche di fare le fusioni: una volta si facevano le fusioni per crescere, no? Aumentavi le masse, le dimensioni, gli attivi. Adesso in realtà fai le fusioni per difenderti, cioè la redditività, per non morire, esattamente. Cioè, ho la sensazione che, tra l'altro, questo processo, tutti i banchieri dicono che ci sono troppi sportelli. In Italia qualcuno, una ricerca, ha segnalato che abbiamo più sportelli bancari che farmacie. Sì, sì. Ma anche in Germania sono così. Per cui noi pensiamo, con la tecnologia un'opera da casa. Ti chiedi a cosa serve lo sportello bancario sotto casa, che ha un costo fisso. Probabilmente si andrà incontro a una grande rivoluzione nel mercato bancario. Cioè assisteremo sicuramente a delle fusioni e a chiusure di sportelli massicce, perché il modello di business non tiene più delle banche. Senti, ma questa fusione, chiudendo di nuovo su Deutsche Bank e Commerzbank, si farà alla fine, secondo te? Secondo me no, è improbabile, perché c'è un problema veramente di antitrust. Cioè lì le Landesbank valgono il 30% del sistema bancario tedesco, ma l'altro pezzo del sistema è la somma di Deutsche e Commerz, che sono i due big nazionali. Temo che ci siano problemi di concentrazione, e ripeto, è forse più pericoloso avere una nuova Lehman Brothers, o meglio una nuova Goldman Sachs, che ovviamente non puoi far fallire, pena un rischio sistemico. Dove vanno tutti, anche Barroso, no, per inciso, no, sì, visto che giustamente la Commissione Europea ha chiesto, sono le porte girevoli, spesso gli alti burocrati o regolatori finiscono poi nelle grandi banche d'affari. Lo sappiamo. Comunque tu dici, alla fine il rischio in questo caso sistemico, quindi anche politico, sarebbe molto elevato, e quindi tu sei più scettico sul fatto che si possa. Sono più scettico per questa ragione, ma penso anche che la redditività non la recuperi semplicemente tagliando i costi. Devi cambiare proprio il modello di business, soprattutto di rendere la banca meno rischiosa. Una tabella di Mediobanca ci dice che tuttora banche francesi, inglesi e tedesche hanno moli di derivati che valgono l'80-90% del loro capitale. Quella roba lì ha un valore che la banca si autoassegna, noi non sappiamo se vale 150, 0, non lo sa neanche la banca. Se un domani succedesse un maremoto finanziario e sei costretto a svalutarli, tu quel patrimonio lo vedi di fatto eroso completamente. Questo è il vero rischio sistemico su cui i regolatori hanno poco spazio di manovra, perché anche loro entrano nelle banche e dicono: io non so calcolare quanto vale quel derivato. E questo apre tutto un altro scenario, poi potremmo andare oltre e dire perché gli stress test considerano più i prestiti alle imprese, ma i derivati, ma abbiamo fatto anche lì numerose puntate sulla parzialità con cui l'EBA, la European Banking Authority, cioè l'Agenzia Bancaria Europea, va a valutare i prestiti a un privato, a un'impresa, rispetto a un investimento in un derivato, come se fosse molto più rischioso prestare in un'impresa che investire in un titolo, in un derivato, con tutti i rischi e la tossicità che abbiamo visto nel 2008. Grazie a Fabio Pavesi, andiamo adesso sulla alla borsa. Allora, la borsa meno 0,12%, c'è un ascoltatore che mi scrive: ma noi, i suoi ascoltatori vogliono la borsa, non sentir parlare di demografia. Ma io adoro le sue certezze, perché io in 15 anni non ho queste certezze su cosa vogliono gli ascoltatori. Ma la demografia, le ripeto, è una variabile economica. Allora, magari non è una sua variabile, ma è una variabile economica. Popolare Emilia Romagna più 1,86%, Banca Mediolanum più 1,70%, A2A più 1,50%, Unicredit più 1,30% come Azimut, Finecobank più 1,1%, Generali più 1%, fronte opposto Fiat Chrysler meno 2,70%, Tenaris meno 1,30% come Prismian, l'1,1% lo perde, ricordati, lo 0,90% il Monte dei Paschi. Mi dispiace per l'ascoltatore, non è stata una giornata indimenticabile. Con un meno 0,12%, ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Fiat meno 2,70 da un lato, e dall'altro però di nuovo un po' di movimento, soprattutto sulle popolari. Sì, diciamo che è stata una giornata in cui le borse erano anche in positivo. Milano era arrivata a guadagnare anche l'1,4% a metà seduta, poi è arrivato questo dato dalla manifattura USA che è sceso oltre le attese, è sceso sotto questa famosa soglia dei 50 PMI punti, europeo, che ha riaperto insomma nuovi scenari, e quindi le borse hanno invertito rotta, anche Wall Street è scesa, Milano ha chiuso in leggero territorio negativo. Parlavamo di FCA, FCA ha iniziato bene, poi ha chiuso in forte ribasso, meno 2,7%, tra circa un quarto d'ora verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni europee, ma quello che forse ha pesato su FCA è la notizia che la Germania avrebbe inviato alla Commissione europea una lettera in cui si denuncia la stessa FCA di adottare un dispositivo illegale per controllare le emissioni diesel. Quindi titolo che ha invertito rotta dopo questa notizia. Per quanto riguarda invece le banche tutte molto positive durante la seduta, poi sono state un po' limitati i guadagni. BPER ha chiuso a più 1,8%, da segnalare che Unicredit più 1,4% e Generali, che ha chiuso con un rialzo dell'1%, hanno di fatto snobbato, diciamo, l'uscita dallo Stoxx 50 europeo. Sì, è vero. Anche se c'è da dire che insomma con i recenti ribassi era stata ampiamente scontata questa cosa. E non solo quella, tante cose hanno scontato, ahimè, i due titoli in questi ribassi. Vita Sociale Editoriale, miglior titolo oggi, più 9,20, Bioera più 6,70, Cotel più 6, TAS più 5,40, ERG più 4,50, fronte opposto Digitouch meno 6% come Invest, e poi Poligrafica San Faustino meno 4%, D'Amico meno 3,80 e Orange meno 3,80%. Grazie anche a Ceo Condina. Adesso c'è il traffico e poi andiamo a ragionare alla luce anche delle dichiarazioni e di indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi, dichiarazioni rese dal Premier, su come si sta delineando la finanziaria. Domani però c'è il dato sul PIL, devo dire che insomma aggrapparsi allo 0,1 veramente non è un bel vivere, insomma, e non è il futuro. Comunque, traffico. Focus Economia. Allora, oltre al dato che riguarda oggi la manifattura europea e ahimè anche quella italiana, l'indice PMI è sceso ad agosto sotto quota 50 punti anche in Italia, e c'è una contrazione in tutta l'area europea, il motivo per cui la borsa, come spiegava Cioccondina, ha poi girato, è il livello più basso dell'indice manifatturiero degli ultimi 20 mesi. Sotto i 50 punti vuol dire che c'è una contrazione dell'attività economica. Questo è l'ultimo dato che arriva dopo la doccia fredda sul PIL a metà agosto e solo nell'ultima settimana la deflazione confermata ieri, la disoccupazione che è tornata o meglio è scesa ma è aumentata, è diminuita l'occupazione, è aumentata la disoccupazione giovanile, sono aumentati gli inattivi, insomma il commercio. Sempre con, riassumo brevemente i dati di questi ultimi giorni, sta tenendo le vendite, però il dato di giugno più 0,2% più 0,8% rispetto a giugno dell'anno prima, cala però la fiducia dei consumatori e delle imprese. A questo punto il governo deve approntare la manovra, deve iniziare a ragionare sulla manovra. Se ho ben capito, a Palazzo Chigi vorrebbero mollare a questo punto la decontribuzione, anche perché è la metà, vale la metà di quella dell'anno scorso, e spostarsi sulla tassazione, e noi non potremo che applaudire una scelta del genere. Lo dico prima che mi accusate di essere renziano, perché due anni che si dice al governo non gli 80 euro ma IRPEF e IRAP, quindi ridurre le tasse su chi il lavoro lo dà o lo produce o lo fa, e soprattutto ridurre il cuneo fiscale. Certo che i margini non sono altissimi, ma iniziamo un insieme di interventi, di interviste, e oggi è la volta del professor Francesco Daveri, che insegna politica economica alla Università Cattolica di Piacenza. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, diciamo, la situazione non è delle migliori. Abbiamo visto anche oggi un Fondo Monetario Internazionale dire che l'economia mondiale rallenta, i rischi sono di un peggioramento e quant'altro. Gli indicatori che stanno arrivando, anche congiunturali, vanno in questa direzione. Chiudiamola sul PIL, perché ho fatto una battuta. A me ha messo un po' di tenerezza vedere che il Ministero dell'Economia deve aggrapparsi a un dato sui servizi per dire che forse il PIL nel secondo trimestre farà 0,1. Tenerezza, e qui mi fermo. Daveri. Ma sì, indubbiamente tutti gli altri dati erano coerenti con una mancata crescita, con la mancata crescita del PIL di cui abbiamo appreso in agosto. È uscito però questo dato positivo del fatturato relativo a una parte dei servizi, cioè che lasciava fuori però il commercio al dettaglio e le banche e la finanza, e quindi quel dato in effetti su base annua fa vedere un più 2%, però non è, siccome non è un dato depurato dalle componenti stagionali, cioè che la Pasqua, il Natale eccetera, allora è difficile tradurlo invece in un dato trimestrale. Gli altri dati trimestrali che invece possiamo misurare, di cui l'Istat ci ha dato, su cui l'Istat ci ha dato informazioni, ci indicano tutti più o meno, cioè grosso modo dei segni meno o dei segni zero come il mercato del lavoro, insomma, o comunque dei segni di che è finita l'ondata positiva dell'anno scorso, che era stata poi insomma relativa probabilmente alla decontribuzione. E il commercio al dettaglio, che è un indicatore dei consumi, ci fa vedere un più 0,2 nei primi, fatto il calcolo, i primi sei mesi sono più 0,2 in valore e più 0,1 in quantità, però i primi sei mesi rispetto ai sei mesi dell'anno precedente, quindi sostanzialmente stagnanti. Da dove venga questi segni più su cui far conto, si fa fatica in effetti a individuare. Ecco, da quello che noi abbiamo capito, professor Daveri, qui c'è un rallentamento dell'economia globale in atto, non sostituito, cioè non riequilibrato dai consumi, che tutto sommato non vanno male, ma se lei dovesse fare un titolo, quindi fare il mio lavoro, e dire ma perché le previsioni quest'anno di un punto e due di PIL di crescita dovranno essere riviste, speriamo non alla metà, ma comunque lì vicino, 0,7-0,8, cos'è che ha contribuito meno delle attese? Oppure erano troppo alte le attese? Il primo titolo sarebbe che erano ottimistiche le previsioni, perché io avevo fatto qualche conto e veniva fuori che per ottenere un più 1,2 su base annua doveva esserci un'accelerazione consistente della crescita nella seconda metà dell'anno, che era di là da venire come minimo, se non invece materialmente un po' così incerta, dato che c'era la Brexit potenziale, dato che c'era abbiamo cominciato l'anno con le borse in picchiata all'ingiù, dato che la situazione delle banche è tutt'altro che risolta, insomma non c'erano, poi per carità i punti di domanda sono sempre quelli che poniamo noi osservatori, il governo e le imprese devono cercare di essere sempre ottimisti. Però insomma rimane il fatto che uno mette dei numeri e più 1,2 era, appariva ottimista quando l'hanno fatto. Detto questo, poi come mai sarà un po' meno ulteriormente di così? Mi sembra che la ripresa degli investimenti per ora non ci sia e non è neanche tanto strano, perché se i consumi sono stagnanti non è che io apro un nuovo punto vendita se sono un supermercato, il padrone di un supermercato o di qualche esercizio al dettaglio, e ugualmente se devo aprire una nuova così fabbrica o almeno insomma cominciare a produrre qualcosa di nuovo in Italia, beh, ci penso due volte, ecco, perché i chiari di luna non sono molto evidenti in termini di minore tassazione per il futuro, di possibilità di fare impresa. Sappiamo che la legge di stabilità deve tenere in ordine i conti, non è che possa far da sola ripartire l'economia, può creare delle situazioni di contesto e quant'altro. Se lei fosse al governo, cosa farebbe da Veri? O ritiene che invece qua, come dice Rogoff, siamo di fronte, rischiamo la stagnazione secolare e quindi qualunque iniziativa sia velleitaria? Beh, insomma, un po' sono d'accordo con Rogoff sul fatto che in effetti un mondo indebitato come quello di adesso è un mondo in cui le riprese non sono più quelle di una volta. Quindi questo anche le mezze stagioni. E oltre le mezze stagioni. Però la cosa, detto questo, però un governo deve provare a fare qualcosa, e non solo quello italiano ma anche quelli europei eccetera. Però stando a quello italiano, qui si tratta di provare a invertire la fiducia, perché alla fin fine il reddito disponibile si fa fatica a tirarlo su in fretta, si può progettare una legge di stabilità che tagli le tasse per il 2017, però se si vuole invertire la tendenza in corso d'anno per indurre la gente a spendere di più e le imprese a investire di più, bisogna riuscire a convincere le persone che poi arriveranno i soldi, ma intanto devono cominciare a riempire i carrelli della spesa e così. E lì, insomma, mi sa che non ci sono tante alternative. Andare avanti con finire le riforme, migliorarle se possibile, perché questo comunque aveva prodotto un effetto con il Jobs Act, in effetti avevano risposto bene le aspettative dei consumatori e delle imprese. Quindi vuol dire che se chi guarda il governo vede completare i piani, beh, si fa un'idea su dove potrebbe andare il paese, per cui questo secondo me è un elemento importante. Ma lei in fase di manovra finanziaria, prima di concludere, dove andrebbe, se avesse dei margini, ma dove andrebbe a ridurre la tassazione? Perché di questo ma io ridurrei la tassazione più sulle famiglie che non sulle imprese, perché quindi cuneo fiscale, se ho ben capito, busta paga del dipendente? Sì, perché comunque quello è un modo. Cioè, nel 2017 è chiaro che poi costa molto di più rispetto a ridurre l'IRES, su cui peraltro sono già stati messi da parte apparentemente nella legge di stabilità precedente 3 o 4 miliardi. Però la cosa che si potrebbe fare è ridurre le aliquote, magari semplificando un po', e nello stesso tempo cogliere l'occasione per diboscare un po' la giungla di detrazioni e deduzioni. Altrimenti andrà a finire che cosa? Che non si tagliano le aliquote IRPEF, e quando verrà il momento di provare a fare qualcosa su detrazioni e deduzioni, arriverà il Premier che dirà: non voglio aumentare le tasse, perché poi se elimino le detrazioni, alla fine la gente pensa che siano aumenti di tasse. Quindi un altro anno in cui non verrà semplificate queste cose. Quindi il cuneo, torniamo al cuneo fiscale. Se posso sintetizzare tutto, ridurre le tasse per chi il lavoro lo produce, e quindi il reddito lo produce e il lavoro lo fa. Ascolteremo anche altre opinioni. Domani siamo in diretta da Chernobyl, questo sarà uno dei temi su cui interrogheremo altri ospiti. C'è infatti l'edizione 2016 del workshop Ambrosetti. Intanto, nel ringraziare anche il professor Francesco Daveri, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.